rinnovo del protocollo su Insieme per il Lavoro, una nota di ottimismo rispetto alla situazione che tutti stiamo vivendo. È un'esperienza che sta dando dei risultati anche in un momento così difficile. Sono infatti 911 gli inserimenti lavorativi ad oggi, con una crescita dei contratti a tempo indeterminato che passa dal 4% del 2018 al 14% del 2020. Conforta anche il fatto che nel 2020 gli inserimenti lavorativi sono stati 354 rispetto ai 313 del 2019. Un dato molto significativo per tutti riguarda l'occupazione femminile. Infatti, delle persone inserite nel 2020, il 54% sono donne, mentre il 46% uomini. Un dato sicuramente in positiva controtendenza rispetto alla media nazionale. È un bellissimo dato anche il fatto che le aziende che aderiscono a questo progetto diventano 104 nel 2020 e quindi si sta rafforzando una collaborazione preziosissima per incrociare, per sostenere il dialogo tra domanda e offerta di lavoro. Quindi credo che abbiamo tutte le ragioni per continuare a rinnovare questo nostro protocollo per i prossimi 5 anni, perché è un'esperienza che si caratterizza per un'estrema personalizzazione degli interventi, per attività di formazione articolata in diversi modi. Il fatto che l'Emilia-Romagna abbia deciso di aderire a questo protocollo dimostra che è molto importante rafforzare questa esperienza e utilizzarla come esperienza pilota anche a livello regionale. 5 anni fa era una grande sfida accettata con un aspetto che credo dobbiamo sottolineare lungimirante e ancora più importante oggi, che è quello che vediamo, almeno io vedo qui nel mio schermo, cioè persone diverse, con ruoli diversi, con competenze diverse, che insieme compongono una scelta di cercare di dare opportunità di lavoro a chi è più fragile. E credo che questo era il metodo dell'inizio. Oggi vederci mi dà una grande soddisfazione e credo che sia davvero un metodo fondamentale non solo per questo aspetto, ma un po' in questa fase così difficile per tutti. Per cui sottolineo insomma di nuovo l'importanza del metodo di Insieme. Poi ci abbiamo da dare tanta stabilità e da continuare a dare tanta stabilità, cioè la percentuale per esempio di quanti hanno una occupazione non precaria deve ovviamente aumentare ulteriormente. I risultati sono davvero incoraggianti, a maggior ragione in un momento che è e che sarà di grande difficoltà, di tanta sofferenza. Penso che questo impegno è uno strumento importantissimo che nei prossimi mesi non soltanto spero sarà capace di affrontare la crisi, ma eventualmente anche di rinnovarsi o di crescere ulteriormente. Mentre facciamo questa discussione continua il corpo a corpo con il virus, ma nello stesso tempo io penso, così come oggi, noi dobbiamo avere azioni, comportamenti che fanno da ponte per riprendere la piena luce, una nuova normalità. Quindi mai perdere di vista queste due teste, il corpo a corpo, ma nello stesso tempo operare, lavorare, per uscire e avere la nuova traiettoria. Devo dire che quando mi hanno spiegato il progetto ho subito capito che era un progetto unico, inedito, tra l'altro con una multiculturalità, come ha evidenziato il Cardinale, nel senso tanti soggetti anche diversi tra di loro, anche culturalmente, quindi il ruolo della comunità esce con grande forza. E l'altro aspetto di grande nettezza che mi ha fatto molto piacere, quello non è un progetto di assistenza, pur importante l'assistenza, ma è un sistema innovativo che accoglie le persone con le sue fragilità, le riconosce, le sa andare a prendere il loro bisogno, non li fa sentire soli, ma gli dice la verità. Quindi a chi ha le fragilità, che sono fragilità fisiche, psicologiche, di competenze, familiari, e non li illude, non promette. È un progetto che dice le verità e vuole recuperare queste persone, gli vuole far recuperare un'autostima, anche perché non c'è un passaggio al lavoro se non c'è anche un recupero del soggetto, del capire che la accoglienza è un fatto che vogliamo con lui, e li fa recuperare quell'autostima che li accompagna nella rete dell'impresa e anche nella comprensione della società. Il tema dell'umanesimo, economia sociale, è un tema che questa regione per fortuna lo sa esercitare, è un fatto molto importante che recupera ovviamente il valore del lavoro. Non regge la Costituzione se non regge l'articolo 1. Se non c'è il lavoro che è in grado di far reggere un sistema, andiamo tutti in difficoltà, ed è un progetto coerente col patto per il lavoro e il patto per il clima.